Oh, bella, tutto a posto? Oh, bella, sì, tu? Ah, non c'è male. Senti, te lo chiedo, ma perché vieni a Valle Pop insieme a noi? Ma che firma, dai, mi pare di Pokémon, tutti colorati, ma che è? Ma che cazzo sei Dio? Ma è arrivato quello che balla Electro con quegli occhialetti, mi pare un coglione, mi pare. Invece, sono fashion, no? Ma che te fai? Ma vai con gli amici tuoi a Pariolini a Ma mo che cazzo sto punto? c'entra Pariolini? Oh? Mo sto termine Pariolini mi fa le sbroccavo. Mo io non so pagare, andiamo a comprare un paio di jeans che costano 3 o 400 euro. Come cazzo te pare? A te non so chi ti ha chiamato, comunque boh, vabbè. Spiego in due parole, come se fa e sei poppato. Non ci vuole molto, non richiede tanto impegno. Smash al beat. Smash al beat. Senti, al giorno d'oggi per far rap i requisiti sono due o sei. Monotematico, sei melodrammatico. Poi c'è Lenzi flaccico, stitico, statico. C'è anche quello sadico, il rap era asmatico. Se vesti pop, abbonda con le taglie. Al posto delle maglie conviene usare le tovaglie. E il cavallo dei pantaloni va bene, diciamo, all'altezza dei coglioni. Se balli pop, preparati a protusioni, contratture, fratture, distorsioni. Con quei movimenti matti, secchi a scatti, che pare te stanno a pigliare convulsioni. La camminata un po' ciondolante e la parlata un po' cantilenante. La visiera del cappello di lato e un passato disastrato. Dicono di noi, dicono di noi, dicono di noi tante cazzate. Pensano di noi, pensano di noi, pensano di noi tante cazzate. Dicono di noi, dicono di noi, dicono di noi tante cazzate. Comunque sei, comunque fai, avranno sempre da parlare. Essere ribelle, parlare di puttane, mai essere solare. Devi essere volgare, devi saper gesticolare bene e dire yo, yo, mentre mostri le tue catene. Non basta un ciao per il saluto, occorre dire bella e fare gesti da sordo muto. E poi fa sempre scena se sei un ragazzo di strada e se sei un gangsta che ha la vita tormentata. Devi dire che spacchi, spacci, schiacci e che giri solo insieme a ragazzacci. I tuoi fratelli, la tua crew, sembra una setta che fa riti voodoo. Vuoi fare rap? Non occorre saper scrivere testi. Basta che ti autocelebri, manco fossi Nesli. Che parli di quanto sei fico, oh, meglio ancora che ti lamenti che tutto è uno schifo. Dicono di noi, dicono di noi, dicono di noi tante cazzate. Pensano di noi, pensano di noi, pensano di noi tante cazzate. Dicono di noi, dicono di noi, dicono di noi tante cazzate. Comunque sei, comunque fai, avranno sempre da parlare. Hai sentito quel cazzo di pezzo The Blaze, quello dicono di noi? Ma sì, ma quello se la crede. Ma troppo, con quel cappellino. Ma con quei cazzo di pantaloni, ma dove cazzo si mette? Ma che si è caduto addosso? Ma poi hai visto come cazzo cammina, come tu, tipo, so tutto io, so tutto io. Mamma mia, cioè, se la crede proprio. No, mo giusto per puntualizzare, perché tanto mi tocca sempre mettere i sottotitoli, sennò non mi capite. Questo non è un pezzo contro l'hip hop o contro chi segue l'hip hop, anche perché io sono hip hop faro, quindi ho soltanto voluto ironizzare riguardo a ciò che la gente pensa di noi, cioè un mucchio di stronzate.